Si éramos una comunidad donde llegamos muchos soñadores en un mundo diferente, ¿sabes? Y me gustó también la gente que pasaba, desde los chicos con las mochilas, que fueron los primeros. Capítulo 3. Paradiso perduto. 21 settembre 2018. Giardino incantato. Allontanarmi dalla costa per qualche tempo ha fatto bene a me e alla vita in comune di questo giardino. Dopo la paura e la rabbia che avevo sentito bruciarmi dentro, ho messo in ordine le mie emozioni in una immaginaria partita a scacchi ed ho deciso di fare la pace. In quei giorni passati sulle montagne a poche ore da qui, ho dato un lungo sospiro di sollievo. Immergermi nei boschi, che profumano di ricordi, di pini dal tronco resinoso con i licheni e i muschi che abbracciano le loro cortecce squamose, seguendo l'odore dei funghi che si nascondono curiosi sotto le foglie. Nuestros antepasados nos enseñaron a curar con las hierbas. Doña Vicenta mi racconta delle leggende di fate e gnomi che sono stati avvistati proprio qui, nel momento esatto in cui scende dal bosco la prima nebbia della sera che inonda la radura. Poi Doña Vicenta sposta con attenzione alcune foglie umide e raccoglie una famiglia di funghi. Mi sorride e mi assicura che sono di quelli buoni, che poi torniamo al suo ostello e me li fa provare. In fondo, litigare con il cibo non è necessario. Così, con il primo caffè del mattino oggi, ho chiesto scusa al cibo se forse i miei ospiti lo avevano disturbato e che per qualsiasi lamentela futura lo ascolterò. Lui ha farfugliato qualcosa oltre la rete, ma non sono riuscita a capire. Domando spesso a coloro che dicono essere cittadini onorari o per nascita di queste terre: è davvero questo il paradiso che avevate sognato di costruire? Non sono lontani i ricordi dei primi pionieri, che qui sono approdati quando esisteva solo una televisione in tutto il villaggio. Era in un negozio polveroso, con gli scaffali quasi vuoti, che vendeva scatolette, tortillas, frutta e verdura, proprio sulla piazza principale. Doña Rosa l'accendeva poco prima del tramonto e ognuno si portava una sedia, assaporando il fresco della sera e le notizie trasportate dal vento di questa scatola magica. Abbiamo il privilegio di vivere qui e adesso, in questa comunità, sorta sulla costa dell'oceano, dove le regole sono state fino ad ora dettate dagli usi e dai costumi della gente stessa, dove si continuano ad organizzare le assemblee del paese per prendere le decisioni tutti assieme. Sì, güey. Come sta? Hola. Ah, che onda, Cleo? Come stai, güey? Questo luogo è una bolla spazio-temporale nella quale ciascuno di noi è caduto per una differente ragione. E probabilmente ciascuno di noi ha dichiarato ad un certo punto della sua permanenza in questo villaggio che mai e poi mai avrebbe vissuto in un luogo tanto piccolo. Un luogo dove tutti si salutano, lungo i cammini che ti portano al mare. Saludos, saludos a tutta la banda. Ci si tiene aggiornati sugli ultimi pettegolezzi degli amori da spiaggia, su quando raccolgono l'immondizia e se hanno ritrovato il padrone di quel cane che sembrava essersi perso l'altra sera, sul film che proietteranno al cinema di strada, un titolo interessante, ho visto le locandine. Ah, alle 8 questa sera, puntuali, che poi non si trova posto per sedersi. Sulla festa che ci sarà dopo e sul concerto con musica dal vivo domani per ballare un poco. Da quando sono arrivata qui, in questa piccola bolla con solo una strada principale che la attraversa, ho cominciato a conoscere persone che vedono la vita in maniera differente. Persone che stanno costruendo assieme alla gente della comunità che qui ci vive da anni una grande famiglia, multiculturale, quel sogno di molti di vivere, almeno per un poco, nel paraíso. Qui si ascolta il lento respiro delle mangrovie che crescono, umide e intricate fino al mare. Poco prima che cominci la stagione delle piogge, vomiteranno le orde di granchi azzurri. Questi sono dei bizzarri animali che corrono rapidi a nascondersi sotto i frigoriferi, suonando poi per tutta la notte le loro chele, smisurate, come fossero dei tamburi, con un ritmo sconosciuto a noi umani. E proprio prima dell'arrivo delle tormente, c'è chi giura che si sentono ridere gli alberi di mango. In quei giorni loro saranno già carichi di frutti, che poi spargeranno succosi abbondanti nei giardini, nei terreni incolti, con i bambini che salgono rapidi sui rami a raccogliere i frutti più grandi e deliziosi. Quando poi cominceranno a cadere le prime piogge torrenziali, le strade di sabbia si convertiranno in torrenti. Il letto del fiume, per mesi in secca, si copre finalmente d'acqua, che corre verso il mare con un'urgenza inaspettata, trasportando nella sua folle rapida i tronchi, le pietre, le ciabatte e tutto ciò che si credeva di aver perduto in paese. Il mare poi si fa intenso, la marea cresce e diventa violenta. Le onde lunghe si mangiano la spiaggia e tutti i baracchini che erano stati costruiti sono cancellati, un'altra volta e per sempre. Buenas tardes. Acá desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM con muchos amigos que vinieron a visitar esta estación de radio comunitaria. Hola, buenas tardes. Visitándolos por un par de días a conocer. Bueno, sí, yo venía con la idea de solo un par de días, pero... Camminare per le strade del paraíso mi ricorda ogni santo giorno che paese piccolo, inferno grande. Durante il giorno, il canto del mare lo cancellano le grida dei camion che trasportano il materiale edile per i cantieri e delle cisterne che trasportano l'acqua. Ormai sono molti mesi che la fornitura d'acqua avviene solo un paio di volte alla settimana e non in tutte le zone abitate. Si rompono spesso le tubature, creando piccoli torrenti lungo le strade e lagune nei giardini di terra battuta delle case. Coloro che hanno avuto la fortuna di aver scavato un pozzo nel proprio terreno adesso stanno diventando ricchi, vendendo a caro prezzo la loro acqua. La febbre che li affligge, quella di costruire in ogni spazio di terra ancora libero, fa crescere rapidamente hotel di lusso, ristoranti, case e negozi. Ho visto giusto ieri, sulla strada che porta alla spiaggia grande, che un sognatore d'altri tempi ha inaugurato un hotel a forma di nave. Un monolito di cemento, con il nome scritto a grandi caratteri rossi e barocchi sulla prua. Titanic. Ironica icona di quello che qui vedo, camminando tra le strade di quello che fu un tempo il paraíso. Già, un paradiso ormai perduto, come quel transatlantico silenzioso che va alla deriva e si incaglia, triste, senza mai raggiungere l'oceano. Sì, tanto non hai niente da fare, quindi senti tranquillo. Alle volte manca anche la luce. Blackout totale per alcune ore. Come se stessero davvero facendo le prove per la fine del mondo. Troppi locali che alla sera si accendono tutti assieme come alberi di Natale, con musica e birra in promozione, richiamando i turisti come le falene. Gli ultimi incendi che hanno mosso tutta la comunità con secchi d'acqua e una lunga catena di passamano sono stati scatenati proprio da un cortocircuito, dovuto all'eccessiva quantità di cavi aggrovigliati ai pali della luce. La fiammella vola da un tetto di palma all'altro e si bruciano le ultime case, proprio quelle che erano sopravvissute all'urbanizzazione selvaggia e agli uragani di questi anni. Da quando sono arrivata, molte persone del posto mi hanno offerto terreni con vista mare, tutti molto economici, e di ricevere commissioni per aiutarli a vendere questa o quella proprietà. La cosa mi ha confuso molto. A chi non piacerebbe avere una casetta con vista mare in un paradiso tropicale? Doña Dominga mi racconta sempre storie di saggezza, nei lunghi pomeriggi che passa dondolando sulla maca con in braccio il suo ultimo nato. Io resto ad aiutarla a bagnare le piante nel giardino del suo ostello e lei mi guarda e sospira. Io non venderò la mia terra, perché altrimenti i miei tre figli ritornerebbero qui un giorno a cercare lavoro come schiavi nelle stesse terre che io ho venduto un tempo. Quando mi siedo di fronte al mare, con la spiaggia piena di ombrelloni e turisti chiassosi che qui arrivano come gli uccelli migratori scappando da una stagione fredda, ricordo quelle storie che lei mi racconta. E scompare ogni ombrellone e ogni persona, quando rivedo quel paraíso fatto di pescatori che lentamente districano le loro reti, mentre raccontano ancora una volta ai nipoti la leggenda delle sirene. Dicono che in certe notti senza luna le sirene ammagliano gli uomini che ne seguono il canto. Questi, ignari dell'incantesimo in cui cadranno, ritornano dalla pesca, che il sole è tramontato sugli scogli della punta del tramonto. Seguono le voci, che giurano venire dal mare, da quella piscina naturale che chiamano la Jacuzzi. Scendono tra le rocce impervie e le onde che risuonano potenti, per entrare nell'acqua, ormai fatalmente attirati dal canto delle sirene. Molti di loro non sono mai tornati, sordi alle grida dei compagni pescatori che per ore sono rimasti a chiamarli e a illuminare il mare nella notte ormai oscura. Eso está chido, ¿no? Es un encanto. El baile de la hada de azúcar. Ah, sí, de Tchaikovsky. Ah.